de forma violenta o que limpian a tu mai con la corta y la 40. Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro. Adentro, adentro. E rieccoci, siamo in corrispondenza appunto per parlare un po', abbiamo anticipato nell'introduzione di questa trasmissione, degli sgomberi che ci sono stati in questi giorni, in particolare quelli nella zona del Pigneto qui a Roma. Appunto, in particolare è stata colpita la comunità senegalese in via Fanfulla da Lodi, che ieri appunto si è trovata davanti le forze dell'ordine, che hanno sgomberato una serie di famiglie dai loro abitacoli, nonostante pagassero regolarmente l'affitto appunto alla società che, nonostante avesse venduto l'immobile, continuava a passare e a chiedere soldi. Siamo in corrispondenza, appunto, ci senti? Sì, pronto, buongiorno a tutte e tutte. Ecco. Sì, come introducevi tu, praticamente ieri si è consumato un vero abuso ai danni di una decina di abitanti del Pigneto, che alcuni di loro, tra cui insomma il titolare del contratto d'affitto, abitano al Pigneto, a via Fanfulla da Lodi 38 dal 1990, c'erano ancora le lire sul contratto, e come hai ben detto l'ultimo pagamento dell'affitto risale alla mensilità di gennaio, pagato con bollettino postale. A questa famiglia di farabutti, diciamo nome e cognome, Rita Sambataro, il fratello, che appunto hanno campato sulle spalle di queste persone. C'è un antefatto che risale a 10 anni fa su questa vicenda, che appunto questa famiglia prendeva 1.300 euro al mese, fuori busta, diciamo fuori quello che era il canone concordato, in nero, e perché volevano vendere casa, perché avevano problemi finanziari, avevano montato, autodenunciandosi, una, diciamo, l'inabitabilità dell'immobile, perché non avevano mai fatto manutenzione, naturalmente, in quelle che erano insomma le stanze della casa, e quindi l'ASL, i vigili avevano rilevato insomma questa pericolosità, e che quindi c'era stato un primo tentativo di sgombero forzato per insicurezza, diciamo, questo proprio 10 anni fa, più o meno, sì, scusate, insomma non 10 anni, nel 2011 più o meno, 2012. E il quartiere era riuscito a bloccare questa operazione truffaldina, con la solidarietà diffusa, il muratore aveva sistemato il tetto, l'elettricista l'impianto elettrico, l'idraulico, insomma aveva messo il gas e l'acqua a posto, e quindi da un nuovo sopralluogo di vigili e ASL, insomma, si era riusciti a riprendere, cioè a scongiurare questo sfollamento, e da lì in poi anche a pagare un canone concordato, quindi il quartiere era riuscito a mantenere i suoi abitanti dove vivevano già da tanti anni, e oltretutto a far sì che non ci fosse, diciamo, questa speculazione sulle vite. Detto questo, dopo questi insomma anni, questa famiglia si è venduta addirittura l'appartamento con le persone dentro senza dirgli niente, e qui veniamo a sapere attraverso l'operazione di ieri della Guardia di Finanza, dove con un decreto di sequestro preventivo dell'immobile per reati di contraffazione, poi veniamo anche a questo, che appunto loro hanno pagato fino a gennaio, e non solo. Questo Sambataro era andato a bussare alla porta, che si lamentava che febbraio non era stato ancora pagato, avrebbero pagato anche questo mese qui. E non quindi si tratta di estorsione, non essendo manco più titolare, insomma, della proprietà dell'immobile a un immobiliare che abbiamo un po' indagato, diciamo a sede a Roma, a Milano, quindi qualcuno che è su quell'appartamento, visto la bolla speculativa commerciale del Pigneto, ci vorrà fare i propri profitti, insomma. E detto questo, lo sgombro è avvenuto per mano della Guardia di Finanza, appunto con un'istruzione del giudice, con un decreto di sequestro preventivo, come dicevo, perché legano, diciamo, la casa al commercio di borsette e abbigliamento, insomma, con marchi contraffatti, per aver individuato, insomma, in alcune persone le prese nella vendita, insomma, di questa merce, abitanti lì, e hanno sequestrato qualche busta di questi oggetti nei mesi passati, dal 2017, insomma, a qualche insomma gli ultimi mesi del 2018. E tre persone che non sono residenti lì erano o di passaggio o ospiti, e mentre tutti i residenti dell'appartamento, della casa di via Fanfulla Lodi, non solo non hanno reati per questa vendita, ma hanno regolare cittadinanza, cioè permesso di soggiorno di lunga durata, alcuni richiedenti la cittadinanza italiana, e come sappiamo, insomma, per avere la regolarità in questo senso non si hanno reati, carichi pendenti e quant'altro. Quindi, diciamo, è un'operazione che intersega, da una parte ci stanno dei farabutti che hanno campato sempre sulla vita di persone, insomma, dei lavoratori senegalesi, e che hanno continuato a fare i furbi, dall'altro un immobiliare che evidentemente ha fatto pressione per avere il proprio immobile e farci gli affari, i soldi lì sopra, e la Guardia di Finanza che, come sempre, monta attraverso giudici compiacenti dei teoremi, per cui butta fuori casa, ed è già successo a via Campobasso al Pigneto per altri due appartamenti, butta fuori casa e regala la rendita immobiliare, insomma, le persone, costruendo teoremi, appunto, che in quei luoghi c'è chissà quale fabbrica della contraffazione, business che sappiamo di svariati milioni di euro, che naturalmente quelle poche sacche che tirano fuori da là non contano veramente nulla, e però si rovina la vita alle persone, e soprattutto si contribuisce in un disegno evidentemente a più livelli e all'espulsione delle persone, degli abitanti poveri del quartiere, e la sostituzione questa con il turismo e con ceti più abbienti. Tutto questo lo stiamo contrastando da anni, tutto questo appunto si trova in una sinergia oppressiva ben strutturata e ben definita, con l'assenza totale di controparte istituzionale, né nessuno del municipio e del comune si è visto, non c'è stata nessuna soluzione di alloggio emergenziale per chi è stato buttato da un'ora all'altra fuori casa, e soltanto per una delle donne, che poi sono la maggior parte persone di una certa età, chi ha 80 anni, chi ha 60 anni, chi ha l'invalidità, soltanto per per una insomma affittuaria della casa, è stata trovata per 3 giorni un alloggio dal comune, per il resto zero. E quindi da ieri c'è questo presidio che sarà permanente fino a che non si troverà soluzione, insomma chi abitava nella casa, sostenuto dal quartiere. Già ieri insomma si sono montate 2 tende, si sono portati i pasti e quant'altro. Quindi lanciamo per domani un'assemblea alle 16.30 fuori lì a Via Fanfulli, con conferenza stampa, per denunciare questo sopruso e nella indifferenza e mobilità totale di chi governa questa città. Certo, poi sappiamo benissimo come poi tutto questo diventa, come dicevi tu, in un piano in realtà a lungo termine per rendere tutto il quartiere più appetibile dal punto di vista commerciale, no? Di renderlo più attraversabile dai turisti, da chi utilizza gli Airbnb o appunto quel sistema di turismo aggressivo che in tanti quartieri, non solo d'Italia, sta cambiando profondamente quella che è la struttura dei quartieri, in realtà poi con le motivazioni che sono sempre le stesse, cioè quelle del profitto dei pochi. E ringraziamo appunto per questa corrispondenza, vi invitiamo appunto a passare ai presidi di solidarietà se riuscirete in questi giorni, e noi sicuramente sì, un saluto, cioè passare lì, dare un conforto anche insomma a qualsiasi ora è importante, far sentire la vicinanza a chi insomma si vuole riprendere quello che gli è dovuto, e poi appunto un appuntamento corale domani dove ci aspettiamo tante persone del quartiere e non solo, ma a dar sostegno e a dimostrare che Roma non è quello schifo che vorrebbero che fosse, insomma, di indifferenza e cattiveria verso insomma il proprio simile. Certo, allora ti ringraziamo per questa corrispondenza e ci vediamo appunto in piazza. Ok, e noi continuiamo con la nostra puntata e continuiamo con Sapienza Clandestina, ma intanto continuiamo con un po' di musica e poi riattacchiamo, parliamo anche un po' di noi e di cosa dicono di noi anche i nostri grandi amici giornalisti.